got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Bentornati a Indovina chi viene a cena. Oggi raccontiamo in questa puntata una storia tragica, intensa, la storia che ha protagonista una persona che è venuta in Italia per lavorare e che ha avuto un tragico destino. Su questa storia è stato scritto un libro pubblicato recentemente da Chiare Lettere, Un uomo bruciato vivo, di Dario Fo e Florina Cazzacu, che è con noi. Benvenuta Florina, indovina grazie, chi viene a cena. Grazie mille, grazie. Lei è la figlia del protagonista di questo libro e di questa storia, Ion Cazzacu. Che cosa è accaduto a suo padre e quando? Ce lo ricordi? Allora, il mio padre era un ingegnere rumeno di 40 anni che per esigenze economiche era spesso costretto di viaggiare all'estero. L'ultimo suo viaggio è stato quello in Italia. Nella sera del 14 marzo del 2000 il suo datore di lavoro si è presentato a casa di mio padre e degli altri 11 connazionali inquilini e anche compagni di lavoro, perché loro purtroppo erano in 12 in un bilocale poco più grande di 40 metri quadrati. Con una bottiglia di benzina in mano e un accendino nascosto nella tasca, urla forte mio padre: "Ti brucio e ti ammazzo". Nessuno non ha avuto né il tempo né ha realizzato quello che si stava per accadere, nessuno non è potuto intervenire perché Cosimo Iannecce, che è il nome dell'ex datore di lavoro e anche del suo assassino, gli rompe addosso questa bottiglia di benzina, tira fuori dalla tasca l'accendino e accende la fiamma. In quel momento il mio padre è diventato una torcia viva, ma Iannecce non scappa come si potrebbe pensare, rimane e tiene chiusa la porta della cucina per non dare a mio padre la possibilità di scappare, quindi papà rimane imprigionato tra le fiamme in quella piccola cucina davanti agli occhi di due suoi connazionali, e sono rimasti anche loro leggermente ustionati. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Questo Questa è la storia quindi di questo operaio straniero rumeno venuto in Italia per lavorare, che ha rivendicato la propria paga, il proprio salario al datore di lavoro. L'avrete letta sui giornali qualche tempo fa. Questa storia è diventato questo intenso dialogo fra la figlia, appunto, e Dario Fo, l'altro autore del libro. Nobel per la letteratura, drammaturgo, scrittore. Maestro, perché lei si è affezionato proprio a questa storia? È stata Franca che ha preso i primi contatti, perché la ragazza che è qui proprio vicino a me era arrivata dall'estero, dal suo paese, per assistere ai processi contro l'assassino di suo padre, e non aveva il permesso di stare in Italia. E allora Franca ha preso e è andato dal questore, dal commissario, dal responsabile, e la messo alle strette e gli ha detto che era una vergogna infame uccidere un uomo, farlo campare in ospedale bruciato vivo per un mese, e poi la famiglia non ha neanche diritto di partecipare e presenziare ai processi. Allora hanno lasciato subito un permesso di soggiorno. Abbiamo continuato a seguire i processi, no? Fino a oggi, pochi anni fa, che è stato cancellato quasi tutto. Questo si è fatto 10 anni di galera, l'assassino, 10 anni di galera, e poi è stato liberato. Un'ingiustizia proprio di inciviltà enorme. E di lì abbiamo deciso di farne un libro. Siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre. Suo padre era andato dal suo datore di lavoro per chiedere di essere pagato. E poi Iannecce è stato denunciato il 18 di marzo, 4 giorni dopo il fatto, da tutti i compagni di lavoro di suo padre. C'è stata quindi solidarietà fra di loro, che non venivano pagati evidentemente. Cosa è risultato dal processo? Allora sì, il mio padre aveva rivendicato un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro, ma non solo per lui ma anche per gli altri 11, quindi parlava a nome di l'intera squadra, perché loro erano una squadra di 12 ragazzi. Il 14 marzo alla sera è successo il fatto, e tutti i ragazzi hanno denunciato Cosimo Iannecce. Il mio padre, anche lui, tra un respiro e un altro, ha faticato, è riuscito a fare la sua deposizione contro l'assassino e raccontare la verità. A quanto pare la fatica di mio padre per raccontare tutto momento per momento, la testimonianza di altri 11, il lavoro della scientifica, non è stato abbastanza per il giudice della Corte d'Appello d'Assise di Milano, perché la sentenza, che nel primo e secondo grado era ergastolo, ma con rito abbreviato si rimaneva 30 anni di carcere, viene dimezzata nel novembre del 2003. I 30 anni quindi diventano 16. Purtroppo questa è stata un ulteriore dolore per noi. È come se avessero ammazzato per la seconda volta il mio padre. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutte le domeniche alle 7:10 qui a Radio 24. mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Quando lei ha saputo di quello che è avvenuto? Lei era in Romania, no? Sì, quando alle 5 di mattino la moglie di uno dei ragazzi che era in casa con il mio padre bussava disperatamente alla nostra porta. Questa donna non ha avuto il coraggio di dirci la verità, aveva solo raccomandato alla mia mamma di non andare al lavoro ma rimanere in casa perché avrebbe ricevuto una importante telefonata dall'Italia. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito subito che non si trattava solo di una discussione, che doveva essere qualcosa di più grave, perché sennò perché mai il mio padre avrebbe dovuto mandare qualcuno per avvisarci? L'avrebbe fatto di persona. Com'era la sua vita in Romania senza suo padre? Perché lei ha rinunciato, c'era questa assenza del padre perché lui si sacrificava per voi, era venuto in Italia per lavorare, per procurarvi da mangiare, da vestire. Sì, allora io ho vissuto poco il mio padre, appunto perché c'erano questi viaggi sempre all'estero. Mi mancava tantissimo perché io ero molto legata a mio padre, ero la sua figlia prediletta e quindi mi ricordo tutte le sue partenze una ad una, mi ricordo quante notti ho fatto con la sua maglietta in braccio per sentire il suo profumo. Mi ricordo che non smettevo di aspettare con ansia la chiamata della domenica, perché tutte le domeniche papà ci chiamava e quindi ero sempre pronta ad alzare per prima la cornetta non appena si sarebbe sentito il primo squillo del telefono. Mi mancava tantissimo, però sapevo che era l'unica nostra opportunità di salvare quel poco che avevamo, la casa, e di riuscire a studiare, perché io volevo diventare un avvocato e mia sorella un medico. T'ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino. Camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti, il vento lì raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna. Nonostante il dolore che le ha procurato l'Italia, vive a Gallarate, la stessa città dove suo padre è stato aggredito, e ha deciso di raccontare questa storia. Perché, Dario Fo, come è avvenuto questo incontro? Allora, io e Dario ci conosciamo da tantissimo tempo, ci conosciamo perché lui e Franca, ovviamente, quando era in vita, appena hanno saputo la nostra storia tragica dalle cronache, ci hanno cercati, ci hanno offerto il loro aiuto. Quindi nel momento in cui io ho deciso di mettere giù tutto quello che io avevo vissuto, di far diventare questa storia un libro, ho pensato che avrei avuto bisogno di qualcuno che mi aiutasse a mettere in pagina come si deve quelle righe che a fatica le avevo scritte tra pianti disperati. Ho chiesto a Dario l'aiuto, perché chi meglio di lui conosceva benissimo nel minimo dei dettagli la nostra vicenda, e in più ci legava anche un stretto rapporto d'amicizia. Devo dire che lui ha subito accettato l'idea, ed ecco che questo mio sogno è diventata realtà. Ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco, non c'è stato molto da dire. Entra a piedi giunti contro i datori di lavoro di questa zona, la zona di Varese fino a Milano, Sondrio, che sono incriminati per lo sfruttamento del lavoro straniero a scopo di mortificarlo e di farne degli schiavi. E su questo gioco, ricatto naturalmente, io ti cancello, ti brucio, o se non ti brucio ti caccio di qua perché tu non sei in regola con i documenti, e poi c'è la crisi dello Stato che si muove contro, cioè in difesa fino a un certo punto, quando ne ha vantaggio, quando non ha più vantaggio allora ecco che brucia. Tre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Che la gente dice vabbè, sarà uno i soliti furbacchioni, è un caso limite, è un caso che non fa storia, e invece ogni giorno si può dire ci sono violenze di questo genere. È dell'altro giorno un operaio straniero a Roma è stato perseguitato da un gruppo di fascisti che volevano ucciderlo, hanno tentato di ucciderlo tagliandogli la gola, lui si è portato subito istintivamente una mano alla gola e loro gli hanno tagliato due dita. E questo sui giornali, su tre giornali è venuto fuori, di quelli importanti. Tutti gli altri hanno taciuto, la televisione ha taciuto, le radio hanno taciuto. Cioè siamo in una condizione veramente di doppio crimine, perché oltretutto tace la memoria, la presa di coscienza e la responsabilità. Quanto conta il fatto che l'Ndrangheta si sia infiltrata in certi settori del mercato del lavoro in Lombardia, secondo lei? Certo, ma come no? Ma c'è, esiste, ci sono dentro i processi, c'è dentro come personaggi, come organizzazione. Questo è un fatto grave. Noi parliamo di questo fatto perché è l'apice di una condizione orribile e non solo di ingiustizia, ma di organizzazione alla solita copertura all'italiana. Noi siamo i maestri del dirottamento delle responsabilità e della cancellazione. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Un'ultima cosa, lei avrà seguito questi giorni questi ragazzi sugli scogli a Ventimiglia, queste certo. situazioni, che ma cosa ne orrenda. Pensa? Ma penso il fatto di trovarsi così sprovvisti e sprovveduti davanti a fenomeni come questo significa un governo e uno Stato che vivono la giornata, che non prevedono, che non hanno un concetto della programmazione, che si fa prendere di colpo senza difesa e senza un programma, il programma che esiste in tutti i paesi civili, che è anticipato, non viene tirato fuori ogni volta che lo vediamo, dalla tempesta all'uscita dei fiumi, allo sgarrimento delle montagne e appunto al fenomeno dell'emigrazione, tutto senza prevedere e senza prendere le dovute attenzioni, insomma, no? Grazie maestro per aver raccontato questa storia a tutti quanti. Sì. Se ti tagliassero a pezzetti il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo. Florina, prima di lasciarla, un ultimo particolare. Suo marito è piastrellista, anche lui come suo sì? padre, e anche sì. lui è vittima di minacce, così? Sì, è stato in passato vittima di minacce perché appunto aveva fatto dei lavori per una persona che era venuta in cantiere, invece in fondo abbiamo saputo che il principale appaltatore era il titolare di una ditta che nell'arco di 10 anni aveva fallito più di una volta e quindi anche stavolta aveva intenzione di dichiarare fallimento. non si poteva fare più niente, nel senso che noi abbiamo appellato al servizio del nostro legale per mandare la lettera e sollecitare i soldi, ma ci avevano detto le possibilità sono quasi zero perché i libri sono già depositati in tribunale. A quel punto io mi sono fatta coraggio, non so, probabilmente disperazione, non coraggio, e sono andata a affrontare queste persone, anche perché ero venuta a sapere la loro vera identità ed erano persone che facevano parte del giro di cui faceva parte anche Cosimo Janecce, e quindi non potevo permettere una seconda volta un'ingiustizia così, e mi sono fatta sentire. Grazie per averci raccontato la vostra storia, la sua storia. Grazie a voi, grazie. E per questa puntata è tutto, io vi rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo alle 23 e da luglio e anche in agosto avrete l'opportunità di riascoltare le puntate in replica anche la domenica alle 13.30. Un saluto da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory.